Fiumi, monti, valli, città e paesi del Friuli costituirono il suo tesoro più grande. Un tesoro che egli generosamente dispensò a tutti e particolarmente a voi, emigrati friulani. Andò a cercarli, quel volto e quel tesoro, nei canti che li esprimevano, nelle villotte note e in quelle dimenticate dai più, ma non perciò meno belle e significative, come in questa a tutti cara missione dedicata all'Isonzo. O come in queste altre che dalla trasmissione inaugurale vi riporteranno l'anima malinconica della Carnia. Come questa primavera e benedette, che esprime amore e primavera, piena di grazie e di severità incomparabili. Oh! Quando Ermacora, accompagnato dal lento suono delle campane, si allontanò definitivamente da noi per raggiungere l'immensa solenne pace su cui vegliano i cipressi, era un sabato sera. Una serata mite, di tal dolcezza che sembrava voler essere l'ultimo dono buono della terra friulana a chi, come lui, ne era stato l'interprete, un commiato sereno e armonioso, tal quale espresso dal bellissimo O Ciampanis di Savi de Sere che avete ascoltato più volte dalle nostre trasmissioni. Piccola raccolta dalle trasmissioni che Chino Ermacora curò per voi. Trascegliendo, abbiamo inteso cogliere come dei petali e ponendoli uno accanto all'altro formare un fiore. È il fiore che oggi a vostro nome l'ente Friuli nel mondo depone sulla sua tomba. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 44esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo e regia di Ermete Pellizzari e Dino Menechini.